Sotto questo aspetto possiamo distinguere tra persone problematiche che hanno zone sensibili, ampie, intense, e valori critici, quindi negativi, estremizzati. Persone come borderline o persone con gravi disturbi di personalità. Poi ci sono le persone nella norma, e non è che le persone nella norma non abbiano zone sensibili o valori critici, li hanno semplicemente meno intensi. Poi ci sono le persone autorealizzate, persone che hanno superato le zone sensibili, cioè le hanno sotto il loro controllo, sono disidentificate da quelle zone sensibili e dai valori critici, e quindi non hanno più quel tipo di reazioni tipico della persona che si chiude e va a finire nel passato.